Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Benvenuti all'ascolto di questa nuova puntata Dal mondo della scuola, il mondo che stiamo esplorando come ogni settimana. Mirko Cavallini in studio con Eddie Daici in regia, mondo che è composto da tante componenti. Abbiamo parlato di insegnanti, abbiamo parlato di alunni e parliamo anche dei genitori, che ne sono parte importante, anche se un po' sulla soglia, diciamo così. Lo facciamo con l'AGE, l'Associazione Genitori, rappresentata per quanto riguarda Noale da Giancarlo Cusin. Bentornato. Buonasera. E da Fabrizio Azzolini, che dell'AGE invece è presidente regionale, anche con lei ci ritroviamo a qualche mese di distanza. Bentornato. Buonasera a tutti. Per parlare di un tema che apparentemente non c'entra nulla, cioè la salute e la sanità, no? Perché questo progetto e perché questo titolo? E quale rapporto esiste tra famiglia, scuola e sanità? Grazie Giancarlo che mi dà l'occasione di presentare questo evento. È il 12° convegno nazionale di Andrea nella sanità. Andrea, dal greco andros, ragazzo, uomo, vuole essere veramente il punto di riferimento nelle nostre pediatrie. La pediatria che deve sempre più essere umanizzata, sia per i ragazzi sia per le loro famiglie, perché tante volte le famiglie non sono ben accette, certe volte non sono ben accudite anche loro negli ospedali. Ecco che allora quest'anno abbiamo dato un titolo a questo convegno: curare, assistere, educare. E sono un po' le tre parole chiave della nostra associazione. Perché? Perché il genitore cura, assiste ed educa il proprio figlio. Poi abbiamo un sottotitolo: la salute comincia in famiglia e nell'ambiente in cui viviamo. La salute, io credo che non è una dogma. La salute viene man mano che si inizia a percorrere la vita. Avviene in un primo momento quando si nasce. E dicevo un pediatra in una delle tante riunioni che abbiamo fatto per questo convegno, il pediatra è come un medico, diciamo, che cura gli animali. Gli animali non parlano, i bambini non parlano, e pertanto il pediatra è come il veterinario, deve intuire ciò che il bambino ha, perché lui non parla. I genitori forse fanno più confusione che altro quando si tratta della salute dei loro figli, pertanto il pediatra deve essere anche uno psicologo, senza solamente guardando il bambino negli occhi, ascoltandolo e tante volte cercando di visitarlo quando il bambino poi non è che si lasci visitare davvero. Ecco, pertanto il pediatra, che è la parte direi più importante per i nostri figli, proprio per questi motivi che ho detto prima. L'ospedale è il territorio per Andrea, cioè il territorio deve essere fatto di buoni pediatri, l'ospedale deve avere dei buoni pediatri, ma prendere solamente gli acuti, non certamente, dobbiamo abituarci noi genitori, non certamente per tutti i mali o più piccoli, eccetera, che il nostro bambino, è vero che noi genitori ci preoccupiamo subito, corriamo subito al pronto soccorso, ma dobbiamo essere invece dei genitori che riflettono e chiamano un buon pediatra perché il loro figlio sia accudito. Non abbiamo detto, Fabrizio, quando è e dove questo appuntamento? Allora, questo appuntamento è a Monteberico di Vicenza. Ed è a Vicenza per un motivo molto semplice: è il 15, 16 e 17 di novembre. Ed è a Vicenza per un motivo molto semplice: l'anno scorso, proprio in questo periodo, novembre, sono stato invitato ad una serata al Circo Orfei, che era proprio con le proprie tende a Vicenza, dove una serata di beneficenza, il circo ha lavorato proprio per beneficenza, per tutto l'introito si dava all'Associazione del Rene. Perché? Perché proprio a Vicenza, nel reparto di nefrologia curato dal professor Claudio Ronco, è nata ad opera sua con degli ingegneri italiani, è nata la macchina per la dialisi del neonatale. Finora, se un bambino aveva bisogno di dialisi, veniva attaccato alla macchina per l'adulto, e poiché tutto è in correlazione con il peso, voi vi pensate le discrasie che ci possono essere tra un bambino di un chilo, delle volte anche meno, e un uomo da 70-80 kg. Pertanto il professor Ronco ha creato questa macchina e noi ci siamo praticamente, abbiamo pensato che, essendo già ormai dall'AGE nazionale dato in realizzazione a noi dell'AGE Veneto il dodicesimo convegno, gli ospedali di Andrea, abbiamo pensato che sarebbe stato poi fatto a Vicenza, così come lo è. E tra poco continuiamo a parlarne, restate con noi. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Di magia. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Di nuovo insieme con questa puntata Dal mondo della scuola, puntata particolare perché con la AGE, Associazione Genitori, stiamo parlando dell'imminente appuntamento Curare, Assistere, Educare in programma a Vicenza, a Monteberico, il 15, 16 e 17 novembre. Giancarlo, a te ancora la parola. Sì, rivolgo ad Azzolini questa seconda domanda. Quali difficoltà e quale lavoro preparatorio ha comportato la realizzazione del progetto? Allora, direi difficoltà di preparatorie ce ne sono state tante. Abbiamo lavorato, pensatevi che è da aprile che abbiamo iniziato a organizzare questo convegno. E non è un convegno solamente dell'associazione, è un convegno dove ci sono varie sfaccettature. Abbiamo voluto costruircelo proprio noi. Tanti ci avevano domandato, dice, ma ci sono delle agenzie? No, abbiamo voluto costruircelo noi. Abbiamo cominciato con una commissione a livello regionale, tra i quali c'è anche Giancarlo Cusin. Abbiamo cominciato a ragionare prima del titolo, poi ad implementare il programma, dandoci, direi, anche dei valori nostri, della nostra associazione. Non si può fare un convegno come questo e non direi esplicitare i valori, i nostri valori fondanti dell'associazione. E abbiamo messo una frase: non possiamo vivere senza il nostro prossimo. Ecco, questo per noi è la frase che se volessimo raggruppare tutto ciò che si fa, questa è la frase chiave del convegno. È un convegno che parte con, anche qui, non abbiamo chiamato i politici a tagliare il nastro del convegno, ad inaugurarlo. Abbiamo chiamato invece una famiglia, la famiglia del nostro presidente di Lonigo, che è stata provata in questi ultimi mesi dalla nascita del quarto figlio, che è nato prematuro, ma comunque con l'aiuto del Signore e l'aiuto di tutti le cose si sono evolute per il meglio. Abbiamo detto: questo è l'uomo, questa è la famiglia nostra che deve inaugurare il convegno, visto che le pediatrie, come l'hanno calcato loro, non l'ha calcata nessuno. Poi abbiamo la presenza, e questo lo devo ringraziare, del Vescovo di Vicenza, che ha voluto venire ad benedire il nostro taglio così virtuale del nastro del convegno. Poi abbiamo due interventi. Abbiamo gli interventi di Monsignor Edmondo Lanciarotta, che parlerà sul tema della Chiesa, come si pone nella sanità, e della dottoressa Possamai, che parlerà, che è la responsabile regionale dell'ufficio scolastico regionale della scuola in ospedale, che ci parlerà della sfaccettatura scuola in ospedale per quei bambini che per motivi di salute, motivi gravi, non possono andare a scuola normalmente come gli altri. Ecco, queste sono i due momenti forti della giornata, assieme alla Lectio Magistralis del professor Claudio Ronco. Ecco, direi che la data del 15 è stata obbligata da lui, perché lui insegna a Filadelfia e, oltre ad essere il responsabile della struttura di nefrologia dell'ospedale San Bortolo di Vicenza, e parlerà sul tema L'evoluzione, ce l'ho qui, della terapia dell'insufficienza renale acuta nel neonato. Benissimo. Ecco, questa è il momento, direi, clou di questo pomeriggio, di giovedì pomeriggio, che ci dà, io credo, dia lustro al convegno, ma soprattutto dà importanza al convegno e direi a tutta la nostra associazione. Per quanto hai detto in precedenza, la riflessione che hai portato all'ascolto degli ascoltatori, in pratica c'è nel Vangelo di domenica scorsa. Ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente, e il prossimo tuo come te stesso. Mi pare che la frase messa in testa al progetto sia proprio azzeccata. Ecco, non so se Fabrizio citava il caso, no, di bambini che devono ovviamente assentarsi da scuola e dalla famiglia per lunghi mesi, non parliamo di un'influenza di qualche giorno. Qui è importante che ci sia una struttura sanitaria adeguata per garantire anche a lui la formazione scolastica necessaria, un appoggio delle famiglie, dei compagni di classe, cioè sono varie le componenti che direi entrano. Che, no? Direi che ogni ospedale si regola come meglio crede, poi dipende anche dalle malattie che hanno questi bambini, perché ci sono dei bambini malati oncologici che possono anche assentarsi delle volte dall'ospedale a seconda, ecco, dei vari interventi che si fa su di loro. Poi abbiamo invece dei bambini, per esempio, che non si possono assentare dall'ospedale perché basterebbe un non nulla, perché sono bambini molto fragili, e allora lì si creano delle strutture, nelle strutture ospedaliere si creano delle strutture scolastiche, e proprio la dottoressa Possamain è la responsabile regionale, che proprio con un insegnamento, delle volte uno su uno, cercano di portare, direi, alla pari questi bambini, e quasi occorre una particolare direi predisposizione per l'insegnamento in ospedale. Non è un insegnamento che possono fare tutti, non tanto per la parte professionale dell'insegnante, ma direi per la parte sua propria del porgersi al bambino, perché è un bambino che tante volte non ha voglia di ascoltare, non ha voglia di apprendere, ma non perché non ne abbia voglia lui, ma perché proprio le sue condizioni sono tali che non le permettono di stare in attenzione come diversamente potrebbe fare. Insomma. Ultima pausa e poi torniamo insieme per chiudere questo argomento. Dal mondo della scuola. Cigarettes, you don't smoke, don't even want to. Ultima parte per questa puntata di oggi dal mondo della scuola, stiamo presentando alcuni dei contenuti dell'appuntamento del 15, 16 e 17 novembre a Vicenza, a Monteberico, per la 12ª edizione degli ospedali di Andrea, un convegno nazionale sul tema curare, assistere ed educare. Giancarlo, tocchiamo altri aspetti. Sì, riprendo il discorso, in parte ha già risposto alla domanda che è quella di illustrare il programma nei giorni di venerdì e sabato. Allora, venerdì è una giornata dedicata alla pediatria. C'è l'intervento di docenti universitari, di primari ospedalieri del Bambin Gesù di Roma, Bambin Gesù che ha dato fra i tanti, ha dato anche il suo patrocinio a questo convegno, e poi c'è tutta la pediatria di Vicenza, ecco i due primari sia di medicina che di chirurgia di Vicenza. È una giornata dove i ragazzi sono presenti, le scuole sono presenti, ci sarà un istituto di Adria di Rovigo che saranno presenti in 62 tra ragazzi e insegnanti. Staranno con noi sia al mattino che il pomeriggio, proprio ed è, siccome sono ragazzi, è un istituto superiore, direi che vengono a sentire veramente le problematiche, ecco, delle pediatrie. Ma perché? Perché anche loro, i ragazzi fino a 15 anni, sono in pediatria, vanno ricoverati in caso di problematiche in pediatria. Ecco, il venerdì finisce abbastanza prestino, perché poi abbiamo, direi, una chicca, direi una cosa che l'Agene è fiera. Liriche in Basilica, alle 20:30 ci sarà una rappresentazione lirica di una soprano, un baritono e un basso, accompagnati dal maestro Fabrizio Malagan, che ad un certo punto canteranno delle liriche principalmente di natura religiosa, proprio in Basilica a Monteberico. Poi ci sarà la cena, verso le 10 ci sarà la cena. Il sabato è un altro giorno dedicato invece ai premi, perché ci sono dei premi per la miglior equipe ospedaliera, sempre in tema di pediatria, e i migliori infermieri. E poi dopo ci sarà un premio per i ragazzi, perché i ragazzi delle scuole primarie e secondarie hanno fatto dei disegni, dei componimenti, e ci sarà la direttrice della Pinacoteca di Brescia che premierà questi componimenti. Poi sul finire abbiamo che cosa? Abbiamo un premio speciale a Paolo Dal Pra. Paolo Dal Pra è stato un ingegnere di Vicenza, un socio AGE, che veramente è stato per noi un uomo di grandi insegnamenti. Era un uomo grande, una montagna, con un cuore da bambino. Noi abbiamo voluto ricordarlo a anni della sua morte, per dare all'associazione, alle nostre associazioni, che ricordo sono 32 nel Veneto, un premio per quell'associazione che si è particolarmente distinta per la cura del bambino. È l'AGE speciale di Sant'Elena, vicino ad Este, Padova, che è nata con genitori, con figli predominantemente down, e che è diventata una potenza, chiamiamola in termini di soci, ha 162 soci e ha fatto delle sezioni, la sezione sanità, la sezione della scuola, la sezione dello sport, ecco, ed è un'associazione che veramente lo merita, e abbiamo deciso a livello regionale di conferirle questo premio. E poi vedo che poi concludete col Consiglio Nazionale dell'Associazione. Consiglio Nazionale che comincia il sabato pomeriggio e finisce la domenica a mezzogiorno, con la messa che verrà celebrata dal Vescovo di Chioggia, Vescovo delegato dalla Conferenza Episcopale Triveneta alla scuola, e sarà concelebrata, tra i quali ci sarà anche Don Edmondo che concelebrerà, e sarà il finale di questa 4 giorni, chiamiamola, e terminerà col pranzo sociale. E direi che per noi AGE Veneto non è certamente un arrivo, non è un arrivo questo convegno, per noi è una partenza. È una partenza perché abbiamo fatto un cammino iniziato nelle nostre AGE, abbiamo girato in questo periodo dalle nostre AGE, perché questo convegno non fosse come l'acqua che scorre sulla roccia, ma sia veramente, vada dentro a tutti i nostri associati. Allora, per ulteriori dettagli www.age.it, 15, 16 e 17 novembre a Monteberico, Vicenza, con Giancarlo Cusin dell'AGE di Noale. Ci ritroveremo in aprile, se non sbaglio, per due appuntamenti. Sull'orientamento scolastico. Ecco, che è un altro tema che ci sta a cuore. Io, come un appello finale, invito tutti coloro che vogliono venire, sono i benvenuti, ecco, veniteci a trovare a Vicenza, a Monteberico, perché sarà una bella esperienza. Grazie. Grazie ai nostri ospiti Fabrizio Azzolini e Giancarlo Cusin dell'AGE, e di Daici in regia, Mirko Cavallini in studio. Tutti buon proseguimento. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.